a 40 anni, bagassone tua madre, capito? Hai capito, finocchio, lo socio. Ma vaffanculo tu. Tanto hai capito che non ci parli con nessuno. Mi dispiace tua Maria, capito? Sentiti la canotta per il culo. Sai che mi ci diverto io, capito? Finocchio. Io fai la voce bassa, vuoi che rompe coglione a tua madre? Eh? Brutto coglione! Brutto coglione! Capito? No, non chiamarlo, non chiamarlo. Sono in pare, capito? Io non me ne sono andato, capito? Sto facendo squillare il telefono a una persona, capito? Oh, paraculo. Cos'è Cristian? Non mi ha fatto niente tu. E allora tutte quelle telefonate lì, non le telefonate. Tu dicevi che c'era quello, quell'altro. Ma se tu nemmeno conosci la gente e vai a fare nome a vampa. A ieri quando stavo parlando con l'auto, allora chi è che faceva il ciucco ciucco ciucco? Eri tu, non era nessun altro, guarda. Aspetta che te lo fa questo porco, e si è staccato troppo fuori, aspetta. Bello è, prende per il culo a me a dire, un facco. Vabbè. Da, non chiama, sono scionato. Tanto non ti faccio. Oh yeah. Sì, sì, palla, palla. Dopo già parli domani. Cos'è? Come mai c'ero con te? Come mai? Perché forse non è vero, no? Che mi prendiamo in giro, no? Che dicevi che c'era Michele a casa tua, ma...